Nella cassetta trovate un piccone con manico di legno e testa di ferro, una lama da taglio interamente in rame, una cesoia con manici rivestiti in gomma e lame d'acciaio, una scure con lama di pietra e manico di legno. Per liberare gli uomini legati, dovete scegliere uno strumento che non conduca elettricità, né nel manico né nella lama.